A Rock FM sono le 7.30. Pane, burro e rock and roll, cos'è? La tua colazione rock. Bello preciso. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Siete voi a costruire questa trasmissione radiofonica. Venghino si rivenghino. Vi abbiamo chiesto di scegliere se permettere a Spadino di ripresentare un brano dei Beatles cantato in italiano straziante. I primi voti stanno vincendo quelli che la vogliono, Mettila, dicono. Ehi Giuditta, sì. E in più altre ogni settimana, scrive Andrea. Ma sì, dai, ascoltiamola, altrimenti come ci svegliamo, Ale? Se me la fai sentire ti faccio le corna e cambio stazione, giuro, Laura. Pietà, ti prego, Sergio. Però stanno vincendo quelli che la vogliono, eh? Saranno altri. Oscar, ti ringrazio, la citazione dell'almanacco era Il Padrino, non... era Taxi Driver, non Il Padrino. 335-100-7777. Ehi Giuditta sì, ehi Giuditta no. No, per favore. Non si può andare avanti così, questa trasmissione deve essere fermata in qualche modo. Va bene. Io andrei con Uriah, porrei fine a questa cosa con Uriah Heep, che fanno sempre la loro porca figura. La vogliono, mandala ti prego, eccolo qua un altro. Giuditta sì o Giuditta no? Questa è Gypsy. Che roba. I fell in love with a gypsy queen. She told me, hold on. Father was the leading man. Said, you're not welcome on our land. And then as a foe, he told me to go. Gypsy, Raya Heap. 7:37 minuti primi. Siete sintonizzati su Rock FM. Complimenti, la colazione fino alle 9 si chiama Pane, Burro, Rock and Roll con l'Ariele, Spadino, Fricantoni e ovviamente tutti voi. Quest'oggi più attivi del solito il lettore degli SMS, quello che ce li trasforma in messaggi da leggere sullo schermo del computer, è letteralmente sta impazzendo. Forse anche perché c'è uno di voi là fuori che per essere votando a favore di Ehi Giuditta, il brano che forse trasmetteremo quest'oggi, dice fatelo perché io suonavo Ehi Gio in spezzino, e ci scrive tutto il testo. Il venerdì si può sopportare di tutto, vai di Giuditta, Silvia. No, risparmiaci lo strazio. Però è vero che i Metallica rifecero l'Angelo Azzurro di Branduardi come promo? L'ho letto in una discografia. Mi andrebbe chiedere a Mox o a Garavelli, adesso corro di là. Modello numero 4, Giuditta! Grazie Dalkan per la citazione che avevo perso. Ma che robaccia, qui è dura la mattina ragazzi. Ma è l'ultimo giorno della settimana, quindi l'affrontiamo con uno spirito diverso. Devo confessare che anche c'è anche chi scrive sì, vogliamo sentire sia Ehi Giuditta che Duome la Muerte. Ritelefonategli, no? Dai, ci ha attaccato in faccia due volte, disturbarlo lo abbiamo già disturbato. Poi detto tra me e voi, secondo me è molto meglio che non ha risposto. Che se quello rispondeva, io, Spadino, o io o tu, il posto saltava, è garantito. Frick lo lasciamo fuori perché non c'entrava niente. Walk of Life, Dire Straits. La spinta giusta per il vostro venerdì è qui. 335-100-7777. Buongiorno Ariel. Lei si stava scaccolando, io l'ho visto. Ero un attimo distratto. Deve smetterla di scaccolarsi negli studi di Rock FM. Dice che sformo le narici. Può essere, ma soprattutto attaccarle sotto lo studio del mister Spadino si incazza. Sì. No, ma no, non glielo dica. No, guardi. Occupiamo meglio il nostro tempo. No, non lo faccio, guardi, non Spadino. Non allora sono Garavelli. Io. Non lo so, De Rio forse. Può essere. Ce ne occuperemo più avanti, intanto mi occuperei dei compleanni del giorno, legati a doppio nodo al 21 di settembre. Io invece ho deciso di scaccolarmi col fazzoletto. E allora mentre lei prosegue io saluto e mi compiaccio con Leonard Cohen, mitico cantautore canadese che nasceva proprio il 21 settembre del 34. Colpo di scena, Leonard Cohen, sì, che è il crooner preferito, sì, da tanti amanti del bel canto sussurrato, romantico, piace tantissimo alle donne, sa, sì, Suzanne, a queste atmosfere così rilassate, un po' l'è soporifere. Un occhietto da crooner, Suzanne, che non vedevo da parecchi anni. Gian Perei al 1000. Novecento, esca da questo corpo. Nascerei nel mille. Sì, nascerei. Passerei al 1947, augurando il buon compleanno a Stephen King, scrittore statunitense, grande rocker, celebre scrittore di libri horror, splatter. Ancora una volta, cosa c'entrano i platter? Splatter, l'ha già fatta questa l'ho già fatta, ma me la sono dimenticata, come andava a finire? Che splatter è un genere di film, non platter, che è un gruppo musicale. Ah, non me ne ero mica accorto. Era il 21 settembre, sa che preferisco quando fa mai buongiorno. Colpo di scena! Esatto. 21 di settembre 1950, nasceva Bill Murray, e allora Freak mi dica... Tutti i film di Bill Murray sono preparatissimo. Sì, non devo dirlo. Allora indosso le mi dia la cuffia. La cuffia tengo, sì. Allora chiudiamo la cabina. Sì, chiudiamo la cabina. Il film, e le dico Bill allora Murray. I film. Vada. Allora, sì. Bill Murray nacque nel 1950. Sì, già detto, oggi. Ecco, Ghostbusters. Esatto, un cult movie. Il filo del rasoio. Anche sì. Del 1984. Bravo. Ecco, per far vedere ci che sono preparato. Migliori. Andiamo, se ci dica i migliori. Ricomincio da capo. Bellissimo. Lo sbirro, il boss e la bionda. Sì. Rushmore. Sì. Le avventure acquatiche di Steve Zissou. Oh, l'ha detto benissimo. E Broken Flowers. Grazie a Fricantoni che ci ha ricordato i film di Bill Murray. Passerei a fare gli auguri di buon compleanno a un suo collega, un cantante. Suo collega forse è troppo, effettivamente. 1951 nasceva Ivano Fossati. Sai che io sono nato 3 anni dopo? Sì, nel 54 lo sapevo. No, dicevo, suo collega è troppo anche perché lui è un cantautore, lei no. Sì, io sono più verso più esatto. Propenso ad amare il rock. Comunque auguri a Ivano Fossati. E allora forse sarà più affine al prossimo compleante. Nasceva nel 1972, proprio quest'oggi, auguri a Liam Gallagher, uno dei celebri fratelli Gallagher degli Oasis. Ecco, allora mi saprebbe dire, per un tot di milioni di euro, come si chiama il fratello di Liam Gallagher? Noel Gallagher. Risposta esatta. Grazie. Vinto qualche cosa? Assolutamente niente. Colpo di scena. Time that I don't mind. You make me feel a millionaire, and you wear it well. Madamoness has got nothing on you, no, no. Anyway, my coffee's cold, and I'm getting told that I gotta get back to work. So when the sun goes low and you're home all alone, think of me and try not to laugh. Sta benissimo Rod Stewart. No, non dicevo te Spadino, traducevo il titolo della canzone di Rod Stewart. È un venerdì delirante quello che stiamo vivendo quest'oggi nella diretta di Pane, Burro e Rock and Roll, e come al solito ci siete voi a renderlo ancora più delirante di quanto già a priori non lo sia. Ragazzi, i voti per programmare o no e Giuditta è andata, si fa, qualcuno si lamenta ma in tanti la vogliono. Carino questo messaggio. Da quando vi ascolto mi sento più vicina a Gian, che lavora e vi ascolta anche lui. Sono teneri questi messaggi, Ti prego, risparmiaci le orecchie, Roby da Genova. Le canzoni tradotte le facevano Pietro Scamarciola e lo scippatore di emozioni. Informatevi. Oh, saluti. Qui si copia tutti, ragazzi. Credevate che qualcosa lo facessimo noi? Tutto copiato, Pane, Burro e Rock and Roll. Mettila, ti prego, mi porto la radio dietro in bagno. La vuoi mandare o no? Se non sento Giuditta, al cuor mi prende una fitta. Mamma mia. Continuate così, Lorenzo da Milano, grazie. Tanti, tanti. C'è un commento anche alle statue che bevono il latte, le statue di Ganesh che bevono il latte. Un amico commenta: dal latte delle statue di Ganesh gli indiani ci fanno il caprice de Dieu. È sottile, ma è molto carina. Ah, a proposito, Carlo della tabaccheria, quest'oggi non si è ancora fatto sentire. Secondo me vuol dire che il terzetto di ieri l'abbiamo azzeccato. Hai capito? Io lo conosco quello lì. Quello non si fa sentire perché dice: non glielo dico che abbiamo azzeccato la terna, i soldi me li tengo io. Oh, Carlo, li abbiamo azzeccati o no? Intanto l'SMS è veramente impazzito. Io porrei ancora un po' di tranquillità, se fosse possibile, almeno con la musica. E oggi è veramente un delirio. Walk on the Wild Side. È andata. E Giuditta la trasmettiamo nella prossima mezz'ora. Marco da Milano ha una domanda per noi. Per chi non può seguire il test attitudinale causa lavoro, esiste un bigino per studiare? Ma Marco! Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey, Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Side, Mr. Lou Reed, nella diretta di Pane, Burro e Rock and Roll, puntata numero 15. Sembrava di aver detto 14, ma è la 15, venerdì 21 di settembre, e tutto prosegue liscio come l'olio. Devo rispondere all'amico che chiedeva come fare ad allenarsi per il 30 di settembre, quando presenteremo la patente davvero rocker, visto che lui non può sentire i test attitudinali. Allora, caro Marco, come spiegavo anche agli altri radioascoltatori, ogni santissimo giorno, al termine della diretta, dopo qualche minuto, tutta la puntata va online su RadioRockFM.com. Quindi il bigino fondamentalmente ce l'hai lì. Ti tuffi su RadioRockFM.com, programmi in archivio, Pane, Burro, Rock and Roll. Il test è a cavallo tra, è alla fine del terzo blocco e all'inizio del quarto. Quindi proprio, guarda, se la vuoi fare semplice semplice, ti ascolti solo l'inizio del quarto, che ci sono già le risposte giuste. E te l'ho servita su un piatto d'argento. Non dirmi che non hai tempo di accendere internet un quarto d'ora, dai, su. Scusate, rido perché c'è un messaggio firmato l'altra tabaccheria, perché giustamente abbiamo la tabaccheria ufficiale, che è quella che ci dà i numeri, che ci aiuta a fare il gioco del lotto, e ce ne sarà un'altra. Invece di fare tutto questo rock cattivo e violento, ma date anche un po' di musica romantica, che c'è la possibilità di rimorchiare qualcosina. Abbiamo appena passato Walk on the Wild Side. Quello non era violento, dai. Appuntamento tra pochi minuti alle 8 spaccate con il nostro brano per svegliarvi. Oggi purtroppo sarà l'ultima giornata che dedicheremo alla colonna sonora di Hair, del musical Good Morning Starshine. Allora è tempo di Marillion, 7:57 minuti primi. Restate con noi, solo qui vi svegliate al meglio, garantito al limone. Children treacherous, now I'm made to take with signora Eleonora Duse vi invita a partecipare alla gita sociale di questo mese. Il torpedone attrezzato di tutti i comfort vi porterà domenica 30 settembre a Cascina Monlue, Milano, nell'occasione straordinaria della presentazione al pubblico della patente Davvero Rocker. Ah, la patente Davvero Rocker. Senta, ma ci sono anche gli Schiantos, no? Ricordiamo a chiunque vorrà partecipare la presenza sul palco dell'orchestra dal vivo Gli Schiantos. Ah, benissimo. Allora però, patti chiari, eh? Io canto solo se mi levate il maglioncino per, come si dice, per ragazzi monelli, quello con le mani legate dietro. Roberto Friccantoni dal vivo e la patente Davvero Rocker. Due piccioni con una fava. La mia!